È lunedì 14 marzo, allora i titoli, Sole 24 Ore apre con questa altra non buona notizia, certamente. Fisco aumenti record per le tasse sul risparmio. Questo è il titolo di prima pagina. In 10 anni il prelievo da interessi e capital gain è cresciuto del 20%. E poi appunto l'attualità internazionale. Corriere della Sera, doppio attacco del terrorismo, Costa d'Avorio, fuoco sui turisti in spiaggia, 16 morti e autobomba ad Ankara in Turchia, 34 vittime. Per la Stampa, Al-Qaeda, la strage arriva dal mare, Costa d'Avorio, assalto agli hotel sulla spiaggia, tra i 16 morti 5 europei. Terrorismo, il giorno delle stragi, anche così apre il Messaggero. Mentre Repubblica, le elezioni in Germania, schiaffo a Merkel, la paura profughi fa volare la destra. C'è però anche una foto terribile dell'attentato in Costa d'Avorio. Le questioni invece italiane, il giornale, Meloni e Salvini rompono, Berlusconi ha un piano B. Roma, Bertolaso incoronato ai gazebo, Fratelli d'Italia e Lega non ci stanno. Libero invece, brogli e soldi spariti, l'altro doping del CONI. È un'inchiesta con l'utilizzo da parte di Libero di carte esclusive della vigilanza del CONI, dai conti svuotati a Ragusa, i buchi milionari nei bilanci della TV, del tennis, i pasticci elettorali, il proliferare delle federazioni, le poltrone a vita. Insomma, un'inchiesta di Giacomo Amadori sul CONI italiano. Il muro contro i migranti invece è il titolo dell'Unità. Tracolli storici per la CDU di Angela Merkel e la SPD nelle elezioni di 3 Bundesländer. Questo è il titolo di prima pagina, dunque le elezioni in Germania. Voglio partire però da che cosa? Alcune notizie sulla scuola. Allora, cari amici, come racconta il Sole 24 Ore, ci sono le domande per il concorso per le nuove assunzioni, il nuovo reclutamento degli insegnanti. Francesca Barbieri racconta, pagina 5 del Sole, che oltre 40.000 domande sono arrivate nei primi 12 giorni del reclutamento degli studenti, l'equivalente di 3.700 domande al giorno, se volete fare un altro calcolo, quasi 3 domande al minuto. È questo il bilancio provvisorio del maxi concorso della scuola, che metterà in palio 63.712 posti per insegnanti dalla materna fino alle superiori nel triennio 2016-2018 con bando ad hoc per il sostegno. Si attende da parte del Ministero almeno 200.000 candidature inviate attraverso il sistema Polis tra il 29 febbraio e la data ultima, quella del 30 marzo. Comunque all'11 marzo risultavano inserite 44.000 domande. Dopo 4 anni di stop, chi ha titolo di abilitazione potrà quindi tornare a mettersi in gioco per conquistare una cattedra. Ci sono tutti i dettagli sul Sole 24 Ore, anche il Corriere della Sera dedica 2 pagine per la verità a questo, e lo cito nel giorno in cui c'è un insegnante che ha vinto $1 milione. Ogni anno a Dubai viene assegnato il Global Teacher Prize, il premio da $1 milione per il docente che si è maggiormente distinto dal suo lavoro a livello mondiale. C'era anche un'italiana, se non sbaglio, nella selezione finale, quindi avrebbe potuto vincere lei, anche un'insegnante di elementare. Ebbene, ha vinto Anan Al-Khroub, 43 anni, 5 figli, maestra elementare nel campo profughi palestinese di Betlemme. E viene intervistata da Caterina Pasolini, che ha seguito a Dubai questa vicenda. Io, la maestra migliore del mondo tra i bambini del campo profughi. Viene intervistata da Repubblica a pagina 20 e racconta il suo metodo, le sue anche difficoltà dell'insegnare una terra davvero difficile. Cito questa intervista perché, attenzione, sull'onda del Global Teacher Prize, con la vittoria della palestinese premiata a Dubai, anche il Ministero dell'Istruzione italiano ha lanciato questa idea. Qui il premio è un po' più basso, non sono $1 milione, ma saranno 50.000 euro. Un premio di 50.000 euro per il miglior prof dell'anno. Lo scrive con abbastanza risalto La Stampa, ma anche sul Messaggero. Già sento il trituramento zebeidico dei sindacati per questa iniziativa annunciata dal ministro Giannini. Ah, come si fa a dire chi è il migliore? Come in tutte le classifiche, perché la migliore è la Juve nel campionato di calcio? No, eppure in prima in classifica, scusate, questa è una battutaccia. No, come in tutte le classifiche, come in tutte le graduatorie, come quando si deve fare una scelta, si fa una scelta e basta, in base a dei criteri che saranno criticati da alcuni, saranno invece sottolineati come giusti da altri, e punto, basta. Comunque, 50.000 euro al miglior prof dell'anno. Il ministro dell'istruzione Giannini annuncia con un video la volontà di istituire un premio per gli insegnanti. Ah, ci sarà l'altra polemica. Dateci i banchi nuovi invece che 50.000 euro. Dateci le finestre rotte, cambiatele a noi invece di dare 50.000. No, si può fare 50.000 euro di premio e si possono sistemare e si devono sistemare anche le finestre rotte. Comunque, la motivazione del riconoscimento italiano sarà la stessa: il miglior professor italiano prenderà, che insegna in Italia, prenderà 50.000 euro, anche se la cifra appunto è un po' più modesta rispetto al Global Teacher Prize. Va bene, ci sarà questa novità, chissà da quando, chissà perché e chissà come. A proposito di scuola, però no, non è tanto la scuola, ma diciamo il campo scientifico, mettiamola così. Tiziana De Giorgio racconta su Repubblica le polemiche per una nomina che c'è stata all'Istituto Nazionale dei Tumori. Vale a dire, la nomina di Andrea Gentile, 36 anni, avvocato, nel consiglio di amministrazione dell'Istituto dei Tumori di Milano, nomina per quel che riguarda il Ministero della Salute. Certo, c'è questo particolare, e cioè che Andrea Gentile è figlio di un sottosegretario, Tonino Gentile, guarda caso del nuovo centrodestra, come del nuovo centrodestra è anche il ministro Lorenzin che ha fatto questa nomina. Ecco, allora, tutti contro il figlio del sottosegretario all'Istituto Tumori, pagina 18 di Repubblica. Una scelta inopportuna e di cattivo gusto, l'ennesima ingerenza della politica negli ospedali che si limita a muovere pedine. Sulla nomina di Andrea Gentile scrive Repubblica: all'interno del CDA dell'Istituto dei Tumori di Milano arriva il no dei medici che bollano come senza pudore la decisione del ministro di mettere il figlio del collega di partito Tonino Gentile a presidiare il cuore amministrativo del famoso polo milanese per la ricerca e la cura in campo oncologico. Anche il direttore scientifico della Fondazione Policlinico fino allo scorso dicembre, Pier Mannuccio Mannucci, dice: non posso dire che la mossa mi stupisca. Il ministro Lorenzin non è nuovo a questi giochi. Il nuovo centrodestra è un partito debole, per questo tende a mettere i suoi uomini anche là dove dovrebbero stare dei tecnici. Insomma, le polemiche per questa nomina arrivano anche a livello politico, ma anche a livello scientifico di colleghi. Allora, a proposito di inchieste, dicevamo, Giacomo Amadori invece fa questa inchiesta su Libero in prima pagina sui conti del CONI, e tra l'altro Giacomo Amadori sottolinea proprio nel momento in cui l'Italia si vuole candidare alle Olimpiadi per Roma, a pochi mesi tra l'altro dall'inizio di altre Olimpiadi, quelle di Rio de Janeiro, in tutto il mondo si discute del presunto doping di Stato degli atleti russi. Ma racconta Giacomo Amadori: il nostro Comitato Olimpico, il CONI di Giovanni Malagò, sembra dormire sogni più tranquilli. Anche se però il doping, altro doping del CONI è questo. Abbiamo visionato, scrive Libero, le carte del responsabile dell'ufficio vigilanza Marco Befera, tra l'altro figlio dell'ex presidente di Equitalia, e si scopre che nonostante i presidenti di federazione abbiano stipendi di soli 36.000 euro lordi l'anno, ci sia tanto interesse a occupare poltrone strapuntini anche in sedi periferiche e apparentemente marginali. L'ultimo caso eclatante riguarda il comitato provinciale del CONI di Ragusa, dove sono state scoperte delle spese con l'uso di carta di credito da parte del responsabile che hanno fatto insospettire, per cui è stato sospeso. Poi si parla di costi milionari della TV del tennis, della Federazione di Tennis, c'è l'Unione Italiana Sport per Tutti, cioè la WISP, che ha fatto ricorso e ha denunciato il CONI, l'autorità garante della concorrenza, per abuso di posizione dominante. Infatti i circoli affiliati WISP di tennis sono costretti a pagare il triplo per affiliarsi alla federazione rispetto a quelli della Federtennis, cioè che sono legati proprio alla federazione stessa. Insomma, tutta un'analisi a pagina 9. Si parla anche di elezioni truccate, di presidenti a vita. L'inchiesta con le carte esclusive dell'ufficio vigilanza finisce sulla pagina 1 e poi 9 di Libero, riguardo ai brogli presunti e i soldi spariti nel CONI. Vabbè, siamo al premio Mani sul volante per l'articolo che mi fa pensare della giornata. Quando l'ho visto proprio mi è venuto la giugulare, le tempie che si gonfiavano, la giugulare che si ingrossava. Ho detto, ma che è sta roba? Ma che è? A pagina 19 del Corriere della Sera, Rinaldo Frignani con tanto di didascalie, eccetera, nell'attesa del plastico, nel salotto di Bruno Vespa. Eccolo qua, la pianta dell'appartamento del delitto di Roma. Luca Varani, dove è stato ucciso. C'è la cucina, il terrazzo, il disegno, no? Perché nessuno è potuto entrare in quell'appartamento, è ancora da 9 giorni, da 8 giorni chiuso, sigillato dai carabinieri, ma evidentemente al Corriere sono riusciti ad avere una piantina di questo appartamento. Eccolo lì, il cadavere per terra disegnato, gli schizzi di sangue, le macchioline rosse segnate a terra tra l'ingresso e il bagno, tutte le chiazze, eccole lì dove sono. Ma che è? Ma che è? Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, ma perché la butti sempre a caciara? Era divertito questo ascoltatore. Era molto divertito da questa sua sigletta. Bravo, al 349-238-6666 potete mandare le vostre sigle anche via WhatsApp. C'hai un altro spot, Peter, da mandare in onda? No, vabbè, a posto. Allora, siamo qui a leggere i giornali. Purtroppo le notizie che arrivano dall'estero sono notizie tragiche, soprattutto notizie, per esempio, di quello che è successo in Costa d'Avorio, dove c'è... tocca dire, a questo giro è toccata la Costa d'Avorio. Le dinamiche sono simili, tre persone che probabilmente, tre terroristi, provengono dall'acqua, dal mare, e attaccano, come racconta il Corriere della Sera, pagina 2, molto probabilmente Al-Qaeda nel Maghreb islamico, a rivendicare, almeno è stato questo gruppo di terroristi, e attaccano a Gran Bassam, a 30 km circa a est della capitale Abidjan, sulla costa, dove ci sono dei resort per turisti. Sparano all'impazzata, viene colpita la gente che sta facendo tranquillamente il bagno. Come racconta anche un italiano raggiunto dal Corriere della Sera, Alessandro Rabbiosi, delegato dell'organizzazione umanitaria Terre des Hommes in Costa d'Avorio, dice: eravamo a pranzo in spiaggia con amici quando all'improvviso abbiamo cominciato a sentire raffiche di Kalashnikov, vedere gente che scappava. È successo all'Etoile du Sud, 200 metri da dove ci trovavamo noi. Siamo corsi in strada, la strada era piena di gente impazzita mentre stavano già arrivando le camionette delle forze speciali. Ovviamente ci sono le foto, le rivendicazioni. Come racconta pagina 3 della Stampa, urlavano alla, anzi di Repubblica, scusate, pagina 3 di Repubblica, urlavano Allahu Akbar, Dio è grande, dicono i testimoni poco prima di colpire e sparare a raffica su tutti. Racconta anche il Corriere della Sera, pagina 3, la presa del jihad sull'Africa. Se uno vede la foto, la cartina dell'Africa, fa impressione vedere come sia diffuso il terrorismo a matrice islamica in tanti paesi: Egitto, Libia, Algeria, Chad, Camerun, Nigeria, Mali, Senegal, Costa d'Avorio, Uganda, Kenya, per non parlare della Somalia, da anni sotto controllo, fuori controllo. Le foto soprattutto colpiscono, le foto dei cadaveri sulla spiaggia che vengono coperti dalle forze dell'ordine dai soccorritori una volta che tutto è finito. Se ci spostiamo invece in Turchia, anche lì c'è stato un attentato gravissimo dal punto di vista dei morti, anche più grave, ancora di più rispetto ai 16 morti in Costa d'Avorio. Si parla di almeno 34 vittime in Turchia, dove un'autobomba esplosa vicino a un autobus ad Ankara. L'attentato dunque nella capitale, come racconta Repubblica, l'esplosione ha colpito una fermata dell'autobus di un parco affollato. L'ambasciata americana aveva diffuso un'allerta a terrorismo e Erdogan, il presidente, dice: siamo nel mirino e ci difenderemo. Insomma, anche dalla Turchia arrivano notizie molto molto negative. Uno a guardare con un po' di ottimismo dovrebbe dire che arrivano notizie un pochino più positive dalla Libia, dove si è formato il governo di unità. Il Consiglio presidenziale ne ha proclamato la legittimità, anche se il Parlamento di Tobruk non ha ancora dato piena fiducia al premier, il premier al-Sarraj. Ora, questo cosa vuol dire? Che va tutto bene così? Ma un po' di dubbi ci sono. Certo, registro l'intervista del Corriere della Sera a Roberta Pinotti, vale a dire il ministro alla difesa italiano. Missione in Libia a 3 condizioni. Ma sono possibili interventi di legittima difesa mirati. Riguardo alla base per l'intervento, la missione è subordinata alla precisa richiesta di un governo legittimo in Libia. Non potrebbe essere altrimenti, dice il ministro della difesa Pinotti. È l'unica via percorribile da noi sempre proposta ed è anche l'unica accettata dagli alleati. Dunque, questa la proposta di intervenire in Libia, secondo il ministro della difesa. Se facciamo un corollario invece di tutte le notizie dagli esteri, le mettiamo insieme, arrivano anche dalla Germania, questa volta non notizie di attentati o di rischi, ma in Germania, dalla Germania ci sono delle notizie importanti, perché ci sono state le elezioni in 3 regioni, diciamo così, chiamiamole così, in 3 stati: il Baden-Württemberg, la Renania-Palatinato, la Sassonia-Anhalt. È un terremoto politico per Angela Merkel, che crolla, e soprattutto c'è la vittoria nel piccolo stato della Sassonia-Anhalt del partito che viene definito dal Corriere della destra xenofoba. Perché vince appunto il partito dell'Alternative für Deutschland. Frauke Petri è la nuova leader politica. È un partito di destra radicale, viene data in rapida ascesa con frasi a effetto e slogan contro gli stranieri. Così ha trionfato questa leader del partito populista, anche se lei, come scrive il Messaggero, nega di essere di destra, ma ammette: abbiamo bisogno della gente che ha paura. Insomma, l'analisi molto grezza del voto che arriva dalla Germania è che Angela Merkel subisca un po' anche tutte le aperture che ha fatto in tema migranti negli anni scorsi. Questo per quel che riguarda le notizie dall'estero. Prima di andare alle notizie italiane, che si cimentano soprattutto con le amministrative che si avvicinano, la sinistra in difficoltà, ma anche la destra in difficoltà, ma anche il Movimento 5 Stelle in alcune città come Milano un po' in difficoltà. Prima però è il momento, è l'ora precisa. In punto, è Mauro Meazza in punto. Ecco, a proposito di un punto, vabbè, lasciamo stare, ti prego Mauro, abbi pietà, sono qua, mani alzate, spara pure, eccomi. Buongiorno caro Alessandro. Buongiorno. Chiedo l'ausilio dalla regia di Peter Descapè, che ha a questo proposito un breve riassunto audio. Sì. Vai Peter. 0-0 anche ieri, sto Milan qui. Ecco, grazie molte. Grazie allora, per la serenata. Ma figurati, sono già innamorato. Essendo lunedì, io vado a declamarti alcune brevi note, alcuni brevi versi. Ah, bene. Sole 24 ore che oggi troverai in edicola. Che, è impazzito, anche come memorando. L'impazzimento del lunedì, vai. Comincia il sole che oggi leggerai in quel decennio dove il PIL discende. Eppur le imposte sul risparmio mai, lo scrivono dell'oste e anche parente. Hai letto già quell'assediare muto degli insegnanti per il concorsone, che inoltran 3 domande ogni minuto, la corsa per la cattedra e l'agone. avesse avuto uguale convinzione la squadra che tu tifi lì a Verona, non piangeresti ora il distaccone dall'Inter col Palermo si padrona. Ma tralasciando il calcio le minuzie, che dirti voglio ancora dell'esperto e delle app, le digitali astuzie che in bolletta ti danno risparmio certo. Non ti dimenticare come ogni dì norme e tributi religiosamente. E sappi che domani è martedì e il dorso sul risparmio sarà uscente. Traffico! Alessandro Mela, il conduttore che sembra a che fare con la carta. E sai che ci deve fare con la carta? Ci si deve pulire il... Va bene. Allora, Mauro Meazza è impazzito. C'è chi già chiede il libro delle poesie di Meazza. Chi lo vuole sindaco d'Italia? Ci scrive via WhatsApp. Oppure chi dice Mauro ha bisogno di cure, io ci metto 2 eurini. Effettivamente potremmo utilizzare il nostro capitale a 24 mattino così. Meazza numero unissimo, Meazza il sommo, Meazza for president, ma soprattutto la domanda che tutti mi fanno è: ma Meazza la domenica mangia pesante? Non lo so, lasciamo questa domanda e domani magari ci risolverà la questione il nostro Mauro Meazza. Se lo lasceranno uscire dalla clinica per 5 minuti. Grande Maurino! Allora, che bisogna dire di quello che succede nella politica italiana? Sono tutti divisi, tutti che litigano. Avete sentito Bersani dopo la famosa intervista di D'Alema 2 giorni fa sul Corriere della Sera, in cui D'Alema ha parlato di dirigenti staliniani nel Partito Democratico, ha evocato la scissione in qualche modo. Ora D'Alema non parla più, c'è Bersani però, nel weekend in cui si è riunita la minoranza Dem, a dire intanto questa frase: Renzi governa comodamente coi miei voti, coi voti presi da me. Insomma, con un po' di livore Bersani ha ricordato tutta la vicenda delle elezioni, poi la formazione del governo mancata, poi l'arrivo di Enrico Letta e l'arrivo di Renzi. Insomma, sapete la storia dell'ultima legislatura. Comunque la minoranza Dem promette battaglia, c'è botta e risposta al veleno coi vertici, soprattutto sgraditissima alla minoranza Dem è stata l'assenza di Lorenzo Guerini, vice segretario del PD. Sono arrabbiato, ripete Bersani a pagina 10 del Corriere della Sera. Perché? Perché Lorenzo Guerini ha deciso di disertare. È incredibile, aggiunge Bersani, è la prima volta che succede una roba del genere. Errore blu gravissimo, da matita blu per l'appunto. Uno sgarbo, una provocazione. Non ricordo una riunione della minoranza a cui la maggioranza non abbia inviato qualcuno. Insomma, siamo veramente ai minimi termini. Sentite addirittura in questo retroscena di Marco Galluzzo a pagina 11 come Renzi avrebbe bollato la minoranza Dem. Udite, udite, ogni giorno se ne sente una nuova. Anzi, mi puoi mettere la musica ancora di... perché è una musica che... sentite, eh? Renzi, della minoranza PD, queste persone sono in preda a demoni personali. Così Renzi avrebbe detto di... ma non solo, della minoranza Dem. Avrebbe aggiunto... avrebbero bisogno di una terapia di liberazione dalla rabbia, intesa come incapacità di incassare le sconfitte. Ah, io pensavo a un vero e proprio esorcismo, scusate, evidentemente mi sono lasciato prendere la mano, ma quando ho letto demoni personali e hanno bisogno di una terapia di liberazione dalla rabbia, ho detto vabbè, Renzi è impazzito, dice che Bersani in pratica ha bisogno di un esorcismo, vabbè. Insomma, a sinistra stanno così. A destra invece che succede? Mentre sto per abbattere un microfono, ecco qua, ho dato un pugno, sembravo Rocky Balboa al secondo turno, al secondo round. No, mi son fatto prendere un po' la mano. Ma a destra che succede? Si guarda a Roma, dove le confermarie, le gazebarie, le bertolasarie hanno confermato Bertolaso come candidato a Roma per il centrodestra. 50.000 elettori del centrodestra sono andati a firmare. Beh, non è che c'è una conferma indipendente, c'è anche questo straordinario documento di Brunetta che di fronte a un giornalista, credo di Repubblica, che gli dice: ma scusi, ma 50.000, vai. Lei li ha visti? Lei li ha visti? Li ho visti tutti, dice Brunetta. Lei li ha visti? Lei li ha visti? Lei li ha visti? Lei li ha visti? No, togli la musica, cosa c'entra adesso? Gli sei fatto prendere la mano anche Peter dagli esorcismi. Insomma, Brunetta si contesta anche questi numeri, 50.000, ma non è questa la cosa più importante, non sono tanti i numeri. È che nel momento in cui il centrodestra conferma Bertolaso, ecco che Giorgia Meloni dice: mi candido io, corro io al posto di Bertolaso. Pagina 9 di Repubblica: per la verità ha solo chiesto un vertice urgente, ma insomma la sensazione è questa, che ora Giorgia Meloni, dopo aver detto no, devo fare la mamma, non posso fare questa corsa, eccolo lì che invece dice, eccola lì, dice: corro io. E Bertolaso ieri sulla 7, io stavo guardando un po' così la TV, appare Bertolaso e dice questa frase che francamente a me ha proprio colpito, perché si diceva decenni di battaglia da parte delle donne per ottenere parità di genere rispetto agli uomini in tutti i campi, anche nella politica, e Bertolaso sotterra questa battaglia dicendo: Giorgia Meloni deve fare la mamma. Deve fare la mamma, così Bertolaso ieri alla 7. Vabbè, insomma, a centrodestra si litiga anche su questo. E poi anche il Movimento 5 Stelle, dove segnalo un'intervista alla candidata sindaco a Roma, Virginia Raggi, intervistata da Emanuele Buzzi a pagina 15, parla un po' del programma della candidata sindaco, che è stata anche già nostra ospite, ma a Milano invece il Movimento 5 Stelle è in grave difficoltà, perché la candidata Patrizia Bedori, 52 anni, fino a ieri annuncia: non sono portata a questo, scrive il Corriere, anche aggiunge: ci sono anche carogne tra di noi, ho capito che non sono tagliata per fare questo, non reggo lo stress, non reggo la pressione, non ce la posso fare, ve lo dico onestamente, tra le lacrime, insomma, abbandona la corsa a sindaco a Milano. Colpa della stampa, dice lei, anche di qualche carogna interna nel movimento. Comunque questo psicodramma è finito, non regge la pressione. La politica regala questo, cari ascoltatori. Vi voglio segnalare in conclusione due articoli, uno del Corriere e uno del Giorno, dedicati a una missione spaziale importante. Noi che inseguiamo il vento di Marte. Pagina 27 del Corriere della Sera, Giovanni Caprara racconta che due scienziate italiane, Francesca Ferri del CISAS a Padova e Francesca Esposito dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di Napoli, studieranno con la sonda Schiaparelli l'atmosfera di Marte. È una missione che parte oggi, o meglio è già partita per quel che riguarda gli studi, ma oggi c'è il lancio della sonda che andrà proprio su Marte per cercare di scoprire poi l'atmosfera di Marte. È un esperimento scientifico, una ricerca molto italiana dunque, e oggi ci sono tutti i dettagli sul Corriere della Sera, un qualcosa davvero di cui andare orgogliosi. Anche il Giorno, per la verità: l'uomo su Marte tra 20 anni, parte una sonda tutta made in Italy, oggi il lancio del razzo europeo, e quindi è qualcosa che ci deve inorgoglire sicuramente. Ma eccoci qua, siamo alla carta costa. L'articolo più inutile scovato sui giornali è un'intera pagina su Repubblica. Si parla degli emoticon, lo sapete, gli emoticon, quelli che uno mette poi nei messaggini, e l'accusa è questa: sono retrogradi e maschilisti, anche gli emoticon finiscono sotto accusa. Perché? Perché negli emoticon in genere le donne vengono rappresentate come delle conigliette, come delle ballerine, come delle infermiere, mentre gli uomini sono rappresentati come poliziotti, come detective. E allora eccoli, l'accusa agli emoticon: sono maschilisti. Ma chi se ne frega!